Noi chiaramente continuiamo sul nostro solito filone di stimolare la riflessione sui temi più caldi, e purtroppo diciamo che in questo periodo di temi caldi ce ne abbiamo veramente tanti, proprio a cominciare da quanto stiamo sentendo o vedendo, quindi i muri che si rialzano, i porti che si chiudono, famiglie che vengono separate alla frontiera, bambini messi in gabbia, insomma diciamo che si stanno rialzando davvero i muri che noi invece faticosamente in questi anni abbiamo cercato di abbattere, e per questo avremo una graditissima presenza di Gabriele Del Grande, che forse qualcuno di voi ha seguito le vicende e spero che insomma qualcuno abbia letto i suoi libri. Con lui vorremmo proprio affrontare questo argomento, cioè vecchi e nuovi muri, perché ogni volta che se ne abbatte uno da un'altra parte ne sorge un altro, e soprattutto qual è il suo punto di vista rispetto alle frontiere. Quindi questo lo avremo sabato ospite, quelli seri dicono nei nostri studi, e invece noi nella nostra piazza antirazzista, insieme anche a voi di Radio Fujiko contribuiremo proprio a far sentire la sua voce. Quest'anno abbiamo deciso anche di avere molte più talk individuali, cioè prendere uno o due personaggi e spremerli fino in fondo, piuttosto che magari un dibattito allargato in cui si fa fatica a far sentire le voci di tutti. Per questo che ad esempio invece il venerdì, che sarà una giornata piena di temi e tematiche, parleremo con Matteo Marani e Lamberto Gerpelli. Matteo Marani, per chi insomma non lo conosce, forse a Bologna è abbastanza conosciuto, direttore del Guerin Sportivo attualmente a Sky, autore di un libro fantastico su ARPADVISE, che è stato forse il più grande allenatore che abbiamo avuto in Italia, poco conosciuto e purtroppo morto ad Auschwitz in quanto ebreo ungherese, che intervisterà invece Lamberto Gerpelli, che ha scritto un libro su Che razza di calcio, quindi riflessioni anche in questo caso sullo sport, il razzismo, e quindi proveranno proprio a ricondurre queste tematiche. Quanto lo sport può essere importante per promuovere una società inclusiva, e l'importanza proprio del racconto attraverso lo sport. E questo si ricollega molto bene all'uso che la potenza dello sport ha avuto per alcune lotte, e mi riferisco in particolare alla lotta contro l'apartheid. Il 18 luglio correrà l'anniversario dei 100 anni dalla nascita di Mandela. Mandela lo sappiamo tutti, anche attraverso lo sport, proprio con il rugby in quel caso ha unito dei popoli, ha portato avanti delle battaglie, e sarà con noi l'ambasciatore del Sudafrica, con cui proprio ricorderemo la figura di Mandela, magari soprattutto ai più giovani, perché oramai alcuni personaggi che per molti di noi hanno rappresentato anche tanto lotte condivise, forse per i più giovani diventano dei personaggi storici. Noi tutti speravamo che l'apartheid fosse appunto una cosa da studiare sui libri, parrebbe che non è così, visto che adesso c'è qualcuno che ricomincia a dire facciamo le cose solo per i migranti, facciamo il censimento per i Rom, e forse ricordare che cosa è stata l'apartheid veramente e le lotte che sono state fatte credo che sia molto importante. Poi andando proprio così veloce avremo altri argomenti, una bellissima ricerca fatta da Avvocati di Strada sul tema degli homeless, e in particolare delle persone LGBT che vivono anche per strada, argomenti che non si toccano mai, in questo caso quando si parla di discriminazioni multiple è ancora più complicato, e quindi è importante invece portare alla luce questi aspetti. Chiaramente si parlerà anche di donne, dell'importanza dello sport al femminile, delle tematiche che noi portiamo avanti sempre. Dopodiché chiaramente ci aspettiamo anche che dalle squadre arrivino dei contributi, magari mentre siamo sui campi, intervistare qualcuno che ci presenta la loro storia.